Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Il momento peggiore nel treno è quando passa il carrello con le vivande. Io spero sempre, prego, scongiuro, invoco i miei dei, che nessuno prenda lo spumantino. Lo spumantino è terribile, c'ha una puzza terribile. È artificiale al 100%. Poi lo bevo nel bicchiere di plastica, mi fa schifo. Vedere quelli che stanno lì col bicchierino di plastica gli sembra di stare, non so, in un night, in un posto raffinato. E sorseggiano quella sorta di sciroppino nefasto. Poi dolce o salato. Dolce o salato è un'alternativa che naturalmente mi lascia del tutto indifferente. Il biscotto dolce, c'è sempre le scagliette di cocco o le palline di cioccolata. Quello salato sono sempre, normalmente, ma perché sono sfortunato e agliofobico, i tarallucci pugliesi infarciti di aglio. Devo dire che la ragazza che sta di fronte a me sembra annuire e sembra condividere perfettamente questa mia valutazione su quelle che sono le derrate alimentari nei treni italiani. Secondo te come si mangia nei treni? Male? Sì. Però c'è quel bello odorino d'arrosto riscaldato. Ma cos'è, tutta roba surgelata che poi riscalda? Non ne ho la più pallida idea. Ci sono anche dei patrocini, oltretutto, di cose famose in Italia. Che danno da mangiare. I marchi famosi che danno da mangiare sui treni, però non ho mai mangiato. Però i biscottini sono buoni. Ti piacciono? No, sì, non li odio. Quelli al cocco? No, di solito metto un qualche goccino di cioccolato ultimamente. No, perché dico dolce o salato? Il salato sono sempre le cose che c'è l'aglio dentro. I tarallucci con l'aglio. Sì, è vero. Io sento sempre l'odore di arrosto che biascica tutti quei sughi. Perché fanno questo? Non fanno delle cose che non puzzano? Perché bisogna vedere cosa ci ha messo dentro. Ci sono le ossa morte di... Sì, ma non viene voglia di mangiare l'arrostino col sughetto quando uno viaggia in treno? È una cosa buona. Te ne intendi di... Un pochino. Cosa fa? La cuoca. Ah, fai la cuoca? Per sì. Questo. E ti piacciono i biscottini dei treni? Sì, mi piace anche, devo dire, i panini quelli di kebab, queste cose così. Il kebab è vero che c'è di tutto dentro. Teste di pecora, palle di toro, ossa di morto. Ci sia quello che c'è, però è buono. È buono perché cosa ci mettono? Ci mettono l'eccipiente, che esaltatore di sapidità, quello fa buono tutto. Ma come il ristorante cinese, queste cose, ti viene voglia di mangiare cinese. Tu ce la metti quella roba nelle cose che cucini? No. Ma come ti è venuta la voglia di cucinare? Di solito le donne considerano la condanna di genere cucinare, poi una sceglie di cucinare per la vita. No, per me era il mio sogno invece. Facevo le tortine di cemento quando ero piccola. Poi i miei genitori invece volevano facessi la farmacista. E io invece ho detto no, io voglio fare il cuoco. Non ti regalavano il dolce forno? No, non me l'hanno mai regalato. Soltanto l'allegro chirurgo? Sì, avevo il kit del dottore, quello piccolino. E invece con... no, e invece tu ci cucinavi? Io volevo sì, cucinare. Facevo le tortine di cemento appunto in giardino. Brutti momenti per mio papà a pulire. Ma io non lo so se è così. Io penso che persone che fanno il tuo mestiere hanno la disgrazia che tutti gli amici li invitano a casa, adesso così mi cucini, e tu devi lavorare gratis per il piacere degli altri. Ti dico, a me piace anche cucinare fuori, quindi dal mio lavoro lo faccio volentieri. Te lo chiedono, sì. Me lo chiedono spesso, e la cosa peggiore è quando tu vai a cena che hanno cucinato loro, e loro si sentono inibiti tantissimo dal fatto che il giudizio che tu potrai dare. Tu fai finta che è tutto buonissimo. Ma sì, ma io sono di alte pretese come di basse, ovvio. Non è che puoi mangiare da 3 stelle Michelin a casa, ma una pasta al pomodoro buona è meglio di tante cose un po' raffazzonate. Ma non ti viene mai il sospetto se un uomo viene a casa tua, viene per mangiare più che per fare la... No. Può essere. Sicuramente, no, più di una volta è successo che siano venuti autoinvitandosi a cena, appunto. E tu speravi magari in qualcos'altro, invece volevano solo mangiare. E invece mangiavano come le bestie, poi finivano sul divano con la pancia piena, satolli e... Ma quindi tu, diciamo, mentre per tutte le donne normalmente la parte più bella viene alla fine della cena te ti becchi solo i ruttili stravaccamente. Eh certo, perché le altre donne cucinano un uovo, un piattino di pasta, io comincio antipasto, primo, secondo, dolce, contorno, mazza caffè, caffè, così via. È ovvio che poi... Beh, sei esagerata. Vabbè, però devi dare, hanno un'aspettativa, quindi devi rispondere a questa cosa a tono. Il tuo film preferito è Il pranzo di Babette? No, non l'ho mai visto. È un film orrendo. Una stronza che butta via tutti i soldi per dare da mangiare a un paese di vecchi scassapalle, sfigati. E tutti i soldi che aveva, fa questo pranzo fantastico, ci mette una settimana a cucinare, con le ostriche, con delle cose buonissime. Questi mangiano, alla fine la guardano e dice vabbè, e la lasciano morire nella sua solitudine. Io ti dirò, avrei più soddisfazione a cucinare per un'intera caserma di soldati grossi. Si mangia malissimo in caserma. Me l'han detto. Io adesso ormai non lo fa più nessuno militare, penso che le mense dei soldati siano dei ristoranti stellati. Ma ai miei tempi era una cosa oscena, perché si mangiava dei vassoi d'acciaio che erano talmente intrisi d'unto di generazioni di soldati che non si pulivano più. Per pulirli usavamo la sabbia. Era sapore quello. Sì, ma era una schifo mortale. E c'erano sempre le stesse cose, sempre tanto aceto, perché la carne puzzava e ci mettevano l'aceto. Dice, non metteteci l'aceto, così non si sente. Adesso metto le spezie, per cui... Perché la carne un po' vecchietta ci si mette le spezie. Sì, dall'origine, prima lo usavano per conservarle, poi lo usavano per coprire appunto il sapore forte, e ancora adesso lo fanno. Allora, invece che dirmi le cose buone, dimmi le schifezze che si usano nelle cucine dei ristoranti, a cui dobbiamo stare attenti. I ricicli, cosa si ricicla nelle cucine? Ma sul riciclo, il riciclo può essere anche una cosa positiva, la polpetta è più buona il giorno dopo quando... Sì, ma chissà che c'è dentro. No, non per forza, non sempre. Cioè, puliscono i piatti con gli avanzi, fanno un grande pastone e vengono fuori le polpette. No, grazie a Dio non ho mai visto cose di questo genere, ho visto... La polpetta sempre la carne del giorno prima, sì. No, la polpetta di solito quasi sempre di... Magari ti metti dentro, ecco, gli avanzi, i fondi dei salumi che non puoi più affettare, queste... ma sono quelle che lo rendono più buona. Cioè il sedere del il pezzetto ultimo del salame, l'osso, sì, del prosciutto. Il prosciutto. E l'osso si trita, l'osso del prosciutto. No, l'osso del prosciutto no, lo disossi prima. Lo disossi prima, vabbè, quello è comunque buono. Eh sì, no, infatti, per cui da poi che altro ci si anzi mette? Le polpette, oddio, in tanti posti sono decisamente una cosa che è meno pacioccata di altro. E quali sono le cose più pacioccate? Le cose più pacioccate dipende più che altro le scadenze che hanno le cose che magari ci sono. Ne plus penser a rien. Ne plus penser du tout. Attendre que le matin pointe son étude à coup. Passer le jour à ne rien faire. S'offrir le droit de rêvasser. Contempler les heures se défaire. Fermer les yeux et soupirer. Je savoure ces instants fragiles, ces quelques jours. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Fammi un esempio. Ho visto tacchini con patine gialle sopra che ti dicevano lavali con l'aceto, appunto. Diventa la patinetta gialla quando... Sì, però il tacchino non lo vuoi più. Licenziata in quel caso. È per il passato Natale chi lo mangia? No, non è quello, è che poi dopo vengono sempre a prendere l'ultimo della catena, ovviamente. Lo chef non si prende la colpa di aver dato un tacchino, ecco, con sopra una patina, è andato a male, viene a prendere te, ultimo della catena. Ma la patina ce l'ha quando ancora è crudo, una volta cotto, sì. La patina diventa una crosticina. Ma sai come puzza? Ah, già, cattivo. Oh. E rimettono in circolo qualcosa che puzza? Certo. Ah sì? Tipo altre cose, oltre il tacchino. Ma non c'è il freezer, non si surgela la roba? Sì, ecco, anche sbalzi di temperatura, cose che sono in prossimità. Ah, perché va via la corrente, lo riscongelano, ricongelano, questo succede spesso. Scongelano, non si accorgono che il frigo si è scongelato, ridanno le cose di questo genere. In quel caso che succede? Diventa velenosa la carne. Non puoi star male. Sì. Effettivamente. Stai male, magari pensi che ne so, è colpa tua. È preso un video. Ovvio, è ovvio che poi è colpa mia, vengono a poi altri ricicli schifosi. Io sono andato in un supermercato, ho chiamato il direttore, c'era l'insalata che era gialla nelle buste. Dice, no, ma la qualità, guarda, è marrone. No, ma la qualità, guarda, io le consiglio di toglierla dal banco, se no devo chiamare io. Ma per favorire il compost, visto che parlano di compost. Era compost. L'insalata però si ingiallisce un pochino anche quando sta in frigo. Quello sì, perché il frigo secca gli alimenti se non li metti, se non li copri. E cosa fate voi quando l'insalata prende quel colorino? La butti? Si butta, lì non si può simulare. No. Qual è le cose? Se è un po' mosciata la puoi mettere in acqua e ghiaccio, magari si riprende un po'. Ah, si ritorna un pochino su. E poi altri stratagemmi? I primi la pasta è quella, non si può fare. Quando non è finita si butta. No, la cosa schifosa lì è quando la fanno precotta, per cui i posti che hanno, però lì ovviamente hanno un grande smercio. La tengono come a mezza cottura. Sì, la tengono a mezza cottura, poi finiscono di saltarla in padella, però non è... Si sente che non è così. Qui c'è sempre la pentola con la pasta dentro. Sì. Quindi quando ti dicono c'è da aspettare 20 minuti è un buon segno. Sì. Decisamente, quando vedi che aspetti per un primo più di 3 minuti vuol dire che quantomeno l'hanno fatto. E 3 minuti è sicuramente espresso. Sì, tendenzialmente sì. Poi lo vedi, cioè vedi che magari prendi un piatto di farfalle e le farfalle sono diventate aquile, diventano giganti, sono più grosse del normale. Quindi perché sono state molto dentro. E poi altre cose? I vini? Le rimboccate le bottiglie, sì. Beh, di queste cose qua ne ho sentite diverse. E come invece fa? Arriva con la bottiglia e fa... Così col dito e mette il vino. No, il vino della casa, quello sfuso nella brocca. Quello fa schifo, sì. Quello lì spesso e volentieri ho sentito dire. Sì, ma non l'ho mai portano, visto, però. Lo diamo al calice questo vino. Ti portano il calice che ne so che ci hanno messo dentro. Mica te lo versano lì. Giustamente. I fondi del caffè, mi hanno detto che li asciugano e poi dopo li riutilizzano. Ci rifanno il caffè? Sì. Sì, quello lo fanno nei bar, molti lo fanno. Tengo quel cassone dentro un sacco della spazzatura di fondi del caffè. Li asciugano, li danno un po' con il phon e... Un'altra botta di caffè. Col phon li vedo pieni di caffè. Beh, sennò come si fa? Li mettono a seccare sul tetto, nel forno, dentro allo scaldavivande. E ci si rifà il caffè? Sì. Ma è una cosa orrenda. Poi c'è qualcosa di proprio terribile che hai visto te? Nelle cucine che proprio ti ha fatto vomitare? Per fortuna no, ho lavorato sempre in delle cucine che erano abbastanza alte di livello, quindi tendenzialmente no, mi è andata bene. Ma che ne dici di quei programmi, quei talent con il cuoco cattivo che tratta malissimo quelli che piangono, ce la farò, non ce la farò? Ci sono transitata anch'io, pensavo fosse vero, te? Sì, e infatti sono andata via piangendo. Come, raccontami un po'. Dimmi, piangendo no, ma incazzata nera. È tutto finto. No, è vero, è finto, è comunque televisione. Beh, Ricci avuto questa polemica perché aveva scoperto chi era il vincitore, che in realtà era uno che già lavorava con il grande chef, quindi c'è tutta una pastetta dietro. Beh, ma quello in Italia dove la escludi fondamentalmente poi... Tu quante prove hai passato? Io ne ho passate 2. Ma era tutto normale, regolare? Per me sì, infatti io non conoscendo nessuno, non arrivando da nessun ambiente in particolare, non avendoci provato così per gioco, pensavo che fosse effettivamente una situazione vera. Invece capito, c'erano quelli che già sapevano prima cosa dovevano fare. C'erano già la cosa preconfezionata, come funzionava? No, poi scopri, ecco, che magari hai ovviamente gente della redazione in mezzo, in modo tale che comunque studiano quello che tu fai, eccetera. Poi sono gli autori dall'alto che muovono tutto e decidono. Sì, perché non giocare cosa sul personaggio. Esattamente. Tu non sei un personaggio. Il personaggio è la ragazza cozza, che nessuno vuole, che però è bravissima, che alla fine vince. La ragazza figa, che tutti trattano male, la trattano come una bestia, perché essendo figa non può naturalmente saper cucinare. Il ragazzo crypto gay che piange, lacrima, alla fine passa, però lo trattano male perché è anche un po' masochista, quindi gli dà gusto. E poi il figaccione che naturalmente vince. Cozza e figaccione è la coppia che vince di solito. Beh no, ci sono adesso forte per le cucine, secondo me come personaggio vince l'isterico. L'isterico? Sì, sì, sì. Di entrambi i sessi. Perché beh, già in sé ha il DNA per fare poi il grande chef che dirige la cucina. Sì, no, perché ovviamente se non tiri 2 piatti non puoi fare il grande chef. A me fa ridere quando i grandi chef assaggiano, che biascicano un po'. Hanno questa forma di assaggiare, dicono fa schifo così. Secondo te assaggiano veramente? Beh, io ho lavorato in un 3 stelle Michelin e lo chef assaggiava tutto quello che usciva, tutto. Qualsiasi cosa, prima che venisse fatto il servizio, durante il servizio, per cui... Beh, è un posto serio, È un posto serio, sì. E se non andava bene rimandava indietro? Sì, sì, rimandava indietro e con uno sguardo solo ti bastava questa cosa. Quindi è veramente un'autorità in cucina lo chef? Sì, all'interno di cucine che hanno ancora una gerarchia effettiva, eccetera, c'è quasi un regime militare. Se non va la cucina. Sì, perché comunque ci vogliono regole ferree, quando tu fai pagare un piatto... 50 euro, una cena 300 euro o molto di più, ovviamente devi avere una perfezione impeccabile. Quando fai pagare 12 euro un primo? No, 12 euro un primo se sei una persona che tiene il suo lavoro e gli piace, ovviamente non lo fai di tuo come tua etica personale, però sicuramente ecco, se mangi male un piatto di pasta a 12 euro dici vabbè non ci torno, se vai in un ostellato e mangi male ti incazzi come una iena, cioè... Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. Tu comandi in cucina? Dove mi sono trovata a comandare, sì. Quanta gente lì sono? 4 persone. Proprio obbedirono come soldati. Ni, dipende dalle teste. Devi riuscire a trovare il modo comunque di avere un buon clima, di riuscire a comunicare all'interno della cucina. E quello è un altro talent, è lo chef Cannavacciuolo che va in ristoranti sfigati, dove litigano sempre lo stronzo che non vuol cucinare, quello che tiene i topi sotto la madia del cibo, e lui li mette tutti d'accordo, gli fa pure la cucina, poi alla fine funziona. Ristoranti che non ci va nessuno, poi improvvisamente sono pieni di gente. Perché lì diventa l'effetto TV. Per cui vai a vedere se si è effettivamente ripreso oppure no il locale o... E poi ecco, ce ne sono tanti che sono affogati e altri che invece... Ma quanto è inciso, diciamo, il talent televisivo culinario sulla gestione di una cucina reale? Cioè, quanto è cambiato il tuo mestiere negli ultimi 3 anni, da quando è diventata una moda fortissima questa? Beh, sicuramente gli stipendi si sono abbassati in modo vertiginoso. Ma pensavo si fossero alzati. No. Perché? Perché adesso tutti pensano che fare il cuoco sia il mestiere più bello del mondo, più facile del mondo, più rilassante del mondo, dove tu puoi esprimere la tua creatività e le tue idee meravigliose. In realtà non è così. Quindi dicono, per questa cosa non c'è budget, come dicevano noi giornalisti, autori, scrittori, poeti, stessa cosa. Tanto ti diverti, sì, se vuoi. Infatti, per cui tu vedi, e c'è gente appunto che si propone per ricrearsi una carriera, per ricreare, ricominciare una vita, magari così si propone come chef, cuoco, quello che è. Qualcuno è andato bene. Benedetta Parodi ha fatto la sua fortuna a farle. Lei ha trovato un ottimo modo, secondo me, di riuscire a comunicare con le persone che non cucinano abitualmente e riuscire a usare il linguaggio semplice della persona che appunto non sta lì a guardare la ricetta complicata, queste cose, ma avrebbe voglia di mangiare una cosa diversa dal solito. C'ha le ricette fantastiche. Prendi un panino, lo apri, ci metti una sottiletta, una foglia d'insalata e lo servi in tavola. Ma io vedo gente che non ci arriva, per cui lei è riuscita comunque a far vedere queste cose, che vai al bar e dici: oh, il panino con tipo la focaccina con le olive, wow, ci ha messo il patè di olive. Diventano cose innovativissime per gente che mangia. Mio fratello mangia solo scatolette di mais. Senti, che ne dici della fine che ha fatto Banderas? Ti dispiace vederlo così, eh? Ma Zorro che fa le focaccine. Secondo me, a me fa tanto ridere, mi piace tanto la gallina, devo dire. È meccanica, lo sai, no? No, e poi è diverso. Cioè, comunque rimane. Gli animalisti hanno protestato. In realtà c'è un tubo, no, che riesce dal sedere. Sì, è elettrica, è finta, non posso, no sarebbe maltrattamento animale. È un robot gallina. No. Sono sicuro, perché ci fu una protesta animalisti, interrogazioni parlamentari. E la Barilla fece vedere che in realtà era una gallina meccanica. Ma è una diva, invece, era una diva, dava ancora l'idea ai bambini. I bambini finalmente vedevano una gallina, quelli che non hanno mai visto una gallina vera. Non mi fa ridere, dice: oggi grande idea, pane, cioccolato. Prendo uno sfilatino bello, ci metto un tocco di cioccolato alto 2 centimetri e poi lo vai a comprare un attrezzino moscio con dentro una cremina nera. E quello è, però è bello, Banderas è una bella fine. Ma no, così è rimasto il sogno erotico delle signore, eccetera, no? Si è voluto. Così loro stanno a casa, cucinano, eccetera, e vedono Banderas che è lì come loro. E dice, cucina, dice inzupposo. Inzupposo, e cade la marmellata sui pantaloni. E voi vedreste l'ora di pulirgli. E certo che la signora appunto lo guarda, è già successo. E butta l'occhio, la marmellata. Vabbè cara, è stato bello, mi hai compensato l'odore che veniva dalla cucina del treno. Ciao, io scendo, alla Ciao. Prossima. Ciao. Treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Nei treni italiani mancano gli scompartimenti XXXXXL per i passeggeri che naturalmente hanno un lievissimo impercettibile problema di sovrappeso. La donnona che sta davanti a me sicuramente non ha il problema del sovrappeso, anche se occupa con il suo fantastico, enorme, illuminato e lunare sederone almeno 2 poltrone. Mi guarda e sorride, capisce che la guardo, ma si ostenta, si mostra, è fiera delle sue tette enormi. sembra più o meno una valutazione superficiale che abbia la 15ª, se non la 18ª taglia di reggiseno. È allegra e gioviale, riempie lo scompartimento con la sua presenza e quindi faccio in modo che lo riempa anche con la sua voce. Non ho mai visto una passeggera con l'aria così soddisfatta in un treno di prima mattina. Sapesse così. E perché, che è successo? Io vengo da Bologna e devo dirle che non è Bologna la città del godimento, sa, la dotta, la rossa, la grassa, ma è Roma. Questa è una novità assoluta. Roma è una delle città più tristi, più zozze che abbia mai conosciuto. Allora, devo dire che io sono, sa, mi vede, no? Sono abbastanza formosa, così, no? Sì, hanno dovuto sbullonare due sedili per sì, praticamente sì. Per fortuna mi ha fatto pagare doppio biglietto, se no mi incazzavo. E niente, vede così, una donna così formosa fa fatica, insomma, anche se c'ho questo davanzale, così. Allora, niente, alla fine, cosa è successo? Io ho scoperto che... Ma fa fatica in cosa? La gente pensa che faccia fatica a trovare degli spasimanti, gentile compagnia, degli accompagnatori li definirei. Invece ne trovi tanti. Sì, a Bologna abbastanza, ma a Roma io spopolo. Cioè io ho sbagliato a stare a Bologna. Qua, cioè... Perché a Bologna saranno tutte tipo lei, abbondanti. No, no, a Bologna ormai è troppo nordica, è troppo barbara, vogliono la secca, vogliono quella... Invece qua proprio a cavallona, a bona, cioè io l'autostima, un giro così, non so... Anche l'area del Vaticano? Anche in Vaticano sono stata addocchiata da un pretino irlandese. Beh, lì è molto singolare, che di solito... Sono un po'... non addocchiano le donne, però vabbè, invece anche lì... È fuori target, diciamo. No, ma secondo me invece queste suorine che fanno i digiuni, che pregano, vedono me il simbolo del peccato, soprattutto della gola, in ogni senso, e impazziscono. Anche i pretini irlandesi, giovani, imberbi. Beh, c'è qualcosa che ti ha segnato, sono passato al tu, posso? Ah, sì, puoi. Che ti ha segnato in maniera particolare in questa vacanza romana? Beh, varie cose. Innanzitutto sono andata in un posto giusto, nel senso che l'ho passata in una comune. Una comune? Esistono ancora le comune? Sì, non lo sapevo. No, pensavo che era qualche museo fuori. No, no, sono andata anche dei musei, ho visto il Caravaggio, bello, a Villa Borghese. No, no, ero in una comune, un asilo occupato, dove tu entravi, c'è tipo, non so, c'era la piscinetta in comune, con i giochi per i bambini, pieno di bimbi, non sono più le comuni di una volta. Adesso c'è proprio questo odore di sugo, di pasta, di bambini che urlano. Sembra, era un asilo, sembra proprio un asilo. Ma bambini antagonisti, come funziona? Non lo so, i genitori un po' antagonisti sì, ma i bambini per me proprio non gli frega. Ah, è un asilo sociale, una cosa del genere? No, no, era proprio, si dorme lì dentro, cioè ci sono... Ognuno sono famiglie che hanno occupato un asilo? Sì, no, ma anche single. Ognuno c'ha il suo loft, che è un'aula d'asilo, e tutti gli allacci abusivi, quindi stanno bene loro. E poi niente... E che fanno tutto il giorno? Ma no, lavorano, portano i figli a scuola, hanno una vita... comune. Beh, portare i figli a scuola non è un lavoro. È no, una lavorano, ognuno ha il suo lavoro. Sono cioè, ma i soldi lì. Come gli entrano? Lavorando, hanno ma uno che stipendio. Un lavoro, un esempio. Non so, c'è una che lavora in un call center, c'è uno che fa il fotografo, c'è uno che fa il cuoco. Ah, lavori creativi e di sì, è un po' artistici, a parte il call center, abbastanza artistici e così. Niente, stanno tutti bene. Tu sei andata e cioè, mi accogliete, t'hanno accolto. No, no, io avevo già un contatto interno e... Come hanno fatto? Tipo Biancaneve nei lettini di Sette Nani? No, no, c'è il lettone, Comunque appena entri ci sono un sacco di... c'è la zona mercatino dell'abusato. Che dell'abusato, le cose abusate. Più abusate, cioè più abusate di me, pensa. Cioè io ho trovato roba più abusata di me. Comunque, scusa la parentesi. No, niente, allora c'erano tutte queste bici, bicicchine, tutti i giochini per bambini. Poi c'è un angolo con tutte le reti, quelle del letto, e dei gran materassi. Quante ne hai prese te? No, no, io c'avevo già il mio, già preparato, così. Però sì, secondo me lì è la zona, cioè, dove c'è, si segnano gli ospiti di ricevimento. Uno si ma registra si paga? E prende... No. Ma tutto gratis? Eh sì, è per quello che mi è piaciuta Roma. Ma se lo sanno quelli che sbarcano... Ma bisogna far così. Vanno tutti lì adesso? Ma sì, ma bisogna far così. Bisogna prendere qualche scuola, rimettere gli allacci, buona. Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. Beh, poi come andate? Poi la sera ceni, si è mangiato? Sì, beh, ero ospite di un cuoco, ho mangiato. Bene, normale, come un ristorante. Sì, io facevo la spesa, io per essere gentile ovviamente, cioè, beh, è una comune, qualcosa di mettere. Facevo, certo, appunto, ho comprato il cibo per il gatto della comune. E poi ho fatto la spesa, io chiedevo al cuoco, scusa chef, cos'è che vuole stasera? Andavo a prendere tutto e lui cucinava, avevo piatti da chef di una comune a Roma. Non hai cacciato un soldo? Niente, vabbè, i soldi della spesa. E quanti giorni sei rimasta? Una settimana, adesso ci rimango un'altra. Com'è che ti sei accasata, scusa? Sì, sto benissimo a Roma, mi piace molto. E poi l'ho detto, sta perché roba... Perché pagare un affitto a Bologna quando puoi stare a Roma in una comune? Vabbè, no, ma adesso tra un po' lo chef se ne va, subentreranno degli altri, io non posso più star lì. Ti sei fatta una storia con lo chef? Sì, beh, diciamo che siamo amici, siamo simpatici amici da un po' di anni, così, ma... Ah, lo conoscevi già? Sì, ah, sì, no, non sono venuta proprio a scatola chiusa, sai, la mia età mi devo un po'... Insomma, bisogna un po'... Avere delle sicurezze. Esatto, avere delle sicurezze, sì. Vabbè, non credo tu sei un tipo da insicurezza, non mi sembra. No, vabbè, anch'io sono una donna fragile con le sue insicurezze. Per esempio, stanotte è rimasta a dormire un'amica dello chef. Il che mi ha fatto molto ridere, perché io, dovendo prendere il treno la mattina, sono andata a letto presto. Sti qua si sono messi a bere. Presto cos'è per te? No, sono andata a letto all'1, però volevo andare a letto prima, perché sti qua volevano comunque stare in compagnia, l'amica, lo chef, così. E niente, si sono messi a bere. Ma c'è anche promiscuità in questo posto? Non lo so. È un ambiente promiscuo? Io non sono stata promiscua. Loro volevano essere promiscui? Non ho la più pallida idea. Non mi sono soffermata, non ho voluto cogliere i segnali non verbali. Allora niente, cosa è successo? Che... sono messa a bere, a fumare e guardare Trono di Spade per l'ennesima volta. Io dopo sono andata a letto, mi sono addormentata. Niente, a un certo punto era già quasi mattina, sento questo urlo di godimento nel loft. Di uomo o di donna? Di donna. Ah. Insomma, no, lui è bravo, eh. Cioè, allora niente, allora io sento sta tipo, roba. Ah, sì. Sì, una roba così, no, più fine. Ah, tipo? Così, ma no? Non era nulla, era un... Sì, però mi ha svegliata. Sto biascichio. No, no, un po' c'era andata su di tono. E poco. Tutti i bambini, poverini? No, i bambini, che ne so, spero che... mettiano il cuscino in testa. Che ne so, vabbè. Non lo so, vabbè. E allora hai sentito il biascichio nel sì, silenzio esatto, dell'alba. Esatto, che erano nell'altra, insomma, nell'altra stanza e stavano... Allora io, cioè, a me dico, adesso mi scappava ad andare in bagno. E devi passare per forza davanti alla zona X. Sì, io che cavolo faccio? Aspetto. Speriamo che questa non abbia gli orgasmi multipli, se no sono finita. Così. E invece continuavano. E io dicevo, ma era in loop, è entrato in loop. Questo ha già goduto, perché continua. Forse stava male. Ma che stava male? Stava bene lei, te lo dico. E niente, allora io a un certo punto cosa faccio? Buona, faccio la cieca. Mi sono tolta, tanto ho gli occhiali. Tipo una sonnambula. Sì, sono andata, ho fatto un po' tentone, sono andata in bagno. Niente, sono andata a dormire di nuovo. Dopo un po' però dovevo andare alla stazione, così, fare il biglietto, una cosa. Mi sono dovuta alzare, avevo finito. È stato bellissimo, perché io e lei ci siamo guardati, siamo cacciate a ridere subito proprio. Sto qua invece stava tutto abbracciato a lei e copriva la faccia, come per dire... Timido lui. Poi. Lui dirà che era stanco, però secondo me un po' di timidezza. Ma noi uomini siamo così. Allora io l'ho guardata... Facciamo gli spavaldi poi. Ma poi sì, ma poi io l'ho guardata e gli ho detto buongiorno, gli ho fatto anche il caffè, gli ho portato il caffè e non si dica che sono una donna gelosa e possessiva. E allora niente, stavamo lì a ridere, ma lei mi fa questa terza puntata di Trono di Spade è stata la migliore. Ho detto, sì, ti è piaciuta, te la ricordi, eh? Così. E lui rosso. Lui faceva finta di niente, così. Poi mi sono vestita in fretta e sono corsa in stazione. Però è stata una cosa veramente comica. Cioè, il mio grande problema non era di trovarmi in questa situazione, che magari alcuni potrebbero trovarla imbarazzante, però era che dovevo andare in bagno. E lì mi sono accorta che la minzione è più importante a volte... Della fornicazione. Sì. Ho fatto questa grande scoperta. Questo si apprezza col passare degli anni quando sei uomini, però. Tu come donna non puoi capirlo. A prostata. Dicono almeno. Mi spiace. Dicono che esista questo problema. Grazie a Dio ancora in questi... Lo sciabordio dei treni evita questo problema, per chi viaggia molto. Aiuta, sì. Ah, un'altra cosa che ho notato di Roma è che essere assetati a Roma con tutte queste fontane è tutta tremenda. Una fontana. Cioè, se tu c'hai sete, è come avere la minzione, appunto, tornando al discorso base, primigenio. Ma certo, uno che è sensibile agli stimoli auditivi. Come avere la minzione auditivi. A Venezia. Sì. Cioè, se a Venezia ti scappa andare in bagno e tu non riesci a trovare un bagno, muori con tutta quest'acqua che ondeggia così. Invece qui a Roma, se hai sete, vedi tutta quest'acqua zampillante. Sono le fontane di Roma, fontane, le note fontane di Roma. Ti viene una sete. A Villa Borghese stavo morendo proprio d'arsura. Per fortuna ho trovato un chioschetto e ho bevuto. Quindi adesso ritornerai a Roma? Ci voglio tornare, mi piace troppo Roma. Vabbè, io devo scendere, sono arrivato alla stazione. Ah, mi spiace, mi era piacevole la conversazione con te. Devo fare cambiare treno per andare a Chiavari. A Chiavari vai? Sì, a Chiavari. Ah, bel posto deve bel essere. Bel posto, molto. Ci vediamo, ciao, al prossimo incrocio. Ciao. Al prossimo, ciao. Il treno Freccia Bianca 9772, diretto a Chiavari, delle ore 11:50, è in partenza dal binario 24. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Hey, I think you got my number. When I was out with my brother, you said hi. And I think I liked you. Oh, we talked about maybe getting together. A rain check on the weather, cloudy skies. And I had to get home. Oh, those eyes, I thought you were a real nice guy. Thought you were just my type, but I forgot your name. Il treno va. Ed ecco che sono arrivato al momento in cui analizzo l'audiolettera. I messaggi che mi mandano soprattutto ascoltatrici, ma non perché lo voglia, perché è nelle cose che sia il pubblico femminile che vuole raccontare al passeggero perenne sul treno quelli che sono i segreti più nascosti, sperando che poi si disperdano lungo le rotaie e fuori dal finestrino. Ci siamo occupati delle vicende estive, dei roboanti e calorosi amori estivi, ma anche chi rimane in città non è detto che non possa consumare rapporti altrettanto pirateschi, corsari, clandestini e profondi, standosene comodamente a casa propria. Caro Gianluca, ti sottopongo la mia vicenda sentimentale perché sono nell'imminenza di una scelta. Scelta che ho in realtà già preso, ma che mi piacerebbe venisse in qualche modo confortata da una sua opinione. Di me che ti posso dire in poche parole? Ho 40 anni, sono separata da 3, ho uno studio di architettura e mi ritengo soddisfatta del mio lavoro. Tutto ha avuto inizio l'estate scorsa, quando ho dovuto rinunciare alle vacanze per problemi familiari che mi hanno costretto a passare agosto a casa mia, a Roma. Tra una visita in ospedale e un'altra, mi sono concessa quel poco che mi potevo concedere, un tuffo in qualche piscina aperta, una passeggiata serale mangiando un gelato con amici e poco altro. Ma di giorno, di fatto, passavo ore a casa, dato il caldo insopportabile, e contrariamente alle mie abitudini, ho fatto una vita stanziale. Ho preso l'abitudine di andare a prendere il sole nella terrazza condominiale, praticamente abbandonata. Nel palazzo c'erano forse un paio di inquilini. Ma oltre a loro, l'amministratore ha pensato bene di chiamare un portiere in sostituzione di quello abituale, partito per le ferie. Un ragazzo di 30 anni che, come mi ha vista, mi ha puntata. Ed è stato un gioco che inizialmente mi ha solo divertito, poi però mi è piaciuto. Niente di nuovo sotto il sole, in fondo. Tutta la narrativa condominiale nei decenni precedenti allucina storie di portieri che vanno di appartamento in appartamento a fare le pulizie personali a quella o quell'altra signora. Nulla, non c'è trasgressione, non c'è novità, non c'è salto sociale, non c'è barriera valicata perché fosse invalicabile. Normalmente cambia soltanto la generazione, invece che un signore attempato con la pancetta, con il grembiulino marrone, che va ciabattando lungo le scale, con lo spazzolone, con lo straccio, e ogni tanto non ha ripassata anche la signora del pianerottolo più compiacente, c'è un baldo giovane che per arrotondare pulisce le scale e quindi dà anche una ripassata alla signora così compiacente, così aperta, così moderna, così impegnata in un futuro in cui le donne possono permettersi anche questo. Io, la sofisticata architetta che si concede al maschio un po' basico, ma che la fa sentire terribilmente donna. Un cliché. Fatto sta che io ci sono cascata in pieno. Ho pensato che mi avrebbe fatto solo bene una storia estiva di questo tipo. E poi? E poi è arrivato agosto e poi settembre e noi siamo ancora amanti. Lui ha ripreso a lavorare nei cantieri, ma ci vediamo da me appena è possibile. Quando i miei amici l'hanno saputo, si sono messi ovviamente a ironizzare sulle prestazioni sessuali del maschio alla Giancarlo Giannini nel film Collamelato. Ma non è proprio così. A me lui piace perché non mi chiede niente. Ha capito molto bene e subito di cosa ho bisogno. Mi lascia in pace. Lui è di una intelligenza non coltivata, ma è diretto e non si nasconde. Non crea sovrastrutture fatte solo per incartare chi ha di fronte. Mi ama e basta. Tutto bello allora? No, perché poi in me il tarlo della ragione mi dice: ma dove vai? Quando le differenze emergeranno, vedrai come sentirai le distanze. Che farai allora? Ecco, ora lui vuole venire a vivere da me. Perché? Gli ho chiesto. Perché no? Mi ha risposto. Ecco, perché no? Mi dico. E in effetti non so cosa rispondere. E qui siamo al punto dolente. La nostra architetta dovrebbe capire e sapere, visto che ormai ha raggiunto quel livello di uguaglianza di doveri e diritti, anche uguaglianza di abbacinamenti amorosi. È chiaro che il baldo manovale muratore per arrotondare portiere vede in lei la gallina dalle uova d'oro. Avrà senz'altro piacevolezza nel consumare rapporti amorosi in lenzuola profumate piuttosto che in un giaciglio improvvisato. Avrà senz'altro quel brivido potente di poter possedere una donna che gli parla in italiano perfetto, che è tenera, che ha un bel bagno profumato, che lo porta in bei posti, che veste con bei vestiti, che gli fa bei regali. E perché no andare a vivere anche a casa sua? Cara mia, una volta si parlava soltanto di mantenute, era squallidissimo vedere questi signori anziani e potenti che prendevano ragazzine povere e di modesta famiglia e facevano l'appartamento, se le portavano in casa, le facevano oggetto del loro piacere, ma allo stesso tempo le gratificavano dando loro una posizione. Tu fai esattamente la stessa cosa con il tuo baldo portiere, in cambio della prestazione fisica e del piacere e la gratificazione che ti dà, mostrandoti ardore che probabilmente i tuoi colleghi hanno dimenticato nei tempi dei banchi dell'asilo, in cambio lui vuole essere mantenuto e tu te lo prendi in casa e te lo tieni. Finché a lui va di starci, te lo terrai dentro casa tranquillo. La mia migliore amica sostiene che c'è una parte di me, quella brava ragazza cresciuta nella Roma bene, che non si vuole vedere insieme a uno come lui. E secondo lei, quando mi chiedo «ma come lo presento a mia madre?», non temo tanto il giudizio di mia madre, ma quella parte di mia madre che è in me. Allora mi sono decisa. Voglio provare a vedere come va questa convivenza, sperando che io riesca a tenere lontano da me quella piccola borghese che mi cammina accanto. Oddio, qui mi cade tutto il castello di considerazione, di sorpresa e di divertimento per quello che mi ha raccontato questa amica. Come? Una donna così emancipata, così intelligente, così introdotta, con tanti amici e tante terrazze, ancora si sottopone al giudizio della vecchia madre, alla quale non può dire: mamma, c'ho un toy boy, me lo porto a casa, perché mi tromba da Dio e mi diverto un sacco. No, cosa pensi, che tua madre si illuda che tu sia ancora vergine? Che tu, signora di mezza età, che vive sola, architetta, lanciata con tanti amici, stia lì a aspettare il principe azzurro? Cosa pensi, che tua madre aspetta che tu gli porti un bravo ragazzo per mano, che vi sposiate in chiesa davanti al prete e gli facciate tanti figli? Ma di tranquillamente a tua madre: cara mamma, ho perso la testa per questo baldo e muscoloso muratore e me lo porto a casa. Probabilmente mi lascerà povera in canna, ma quello che mi ha dato in cambio nessun altro dei miei amici e delle persone che tu conosci me lo darà mai. Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps léser. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.